Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. L'evasione impossibile di Santa Notar Nicola, parte 17. Ogni trasferimento comporta nuovi problemi, e sono poi sempre i carceri peggiori e quelli più lontani che ci toccano. In altri posti le direzioni mettono in moto la provocazione per dividerci e isolarci dalla massa. Generalmente ci mettono contro i locali, che logicamente hanno tutto l'interesse a non essere trasferiti lontano dalle famiglie e spesso si assoggettano a un'ingiustizia pur di evitare il trasferimento. Per esempio, il maresciallo Forte di Augusta un giorno ha radunato il gruppo dei detenuti più vivaci, più ribelli, e ha detto loro: «Su 300 detenuti, guardate che 250 sono con me, oltre alle guardie, quindi se volete la guerra io ve li scaglio contro tutti». Vedete, per la direzione è sufficiente ridurre l'orario dei colloqui e togliere alcune piccole agevolazioni, perché una parte dei detenuti si metta contro di noi. È quello che succede qui a Lecce negli ultimi tempi. Vengono presi individualmente e magari diffidati dal passeggiare con noi e dal parlarci. In breve si cerca di emarginarci. In questo carcere si è arrivati a far circolare voci calunniose su un nostro compagno, proprio per colpirlo nella sua dignità e metterlo in condizione di non fare più niente, tanto che è stato costretto a chiedere lui stesso di essere trasferito. Poi esiste un'altra arma che viene spesso adoperata, quella di frenare la corrispondenza, di annullarla fra carcere e carcere, coi compagni esterni, quindi tutto il lavoro subisce un rallentamento, una sosta, e bisogna allora ricorrere a sostanziali modifiche espressive, proprio per evitare che sia cestinata. Pensate poi che qua giù sono i preti a censurare le lettere. Col tempo prevedo che questo stato di cose potrà peggiorare e non sappiamo ancora quali sviluppi possa avere. Comunque abbiamo messo in moto una macchina che non sarà più possibile fermare. Ormai in quasi tutte le carceri possiamo contare su piccoli gruppi che operano e quindi fra poco anche la tecnica dei trasferimenti improvvisi non sarà più valida e per ora noi che la subiamo la adoperiamo per incontrare nuovi compagni, per scambiarci le opinioni e le esperienze. Di gran lunga più difficile il lavoro politico nelle carceri del Sud, dove l'assenza di una tradizione operaia si riflette pure all'interno del carcere, ma più grave è la psicosi del fascismo. Al nord anche il più qualunquista e meno impegnato quando sente parlare di fascismo arriccia il naso. Qui invece è diventato il pensiero delirante, specie fra le guardie di custodia e anche fra qualche detenuto, ma questi ultimi è più facile farli tacere. Un sottufficiale delle guardie di custodia, proprio qui a Lecce, tempo fa ha minacciato: «Se il 7 maggio vinciamo, vi facciamo un culo così a voi comunisti». Chi l'ha sentito mi ha assicurato che era convinto di ciò che diceva. Malgrado tutte le difficoltà, molti di noi hanno preso coscienza e abbiamo capito che ognuno di noi da solo non è niente, che noi tutti non siamo pazzi, o tarati o anormali, siamo solo dei ribelli che abbiamo perduto a volte la strada sbagliando strada, ma in quanto sfruttati e oppressi. Noi siamo il prodotto inevitabile di questo tipo di società. Non si tratta di eliminare noi o il reato individuale, è impossibile. Si tratta invece di cambiare le condizioni sociali che determinano questo stato di cose, per cui tutti noi dobbiamo unirci a tutti gli oppressi e agli sfruttati per creare un mondo migliore, senza badare se la nostra sorte personale ci permetterà poi di godere i frutti del nostro lavoro. Questo è possibile anche nel carcere, dove c'è tanta gente psicologicamente e moralmente repressa, regredita a causa delle condizioni di vita precedenti e successive all'arresto. Bene, non abbiamo altro da dirvi, non ci resta che augurarvi buon lavoro. La direzione del carcere di Lecce per il momento sembrava ignorarci, ma ci pensammo noi a smuovere le acque e il nostro camerone decise di rifiutare il cibo per un giorno. La sera stessa fummo convocati dal dottor Siciliani. La custodia aveva fatto rapporto. Facemmo delle richieste generali, ore d'aria in più, installazione della sala TV, migliore sistemazione dei cameroni, della sala colloqui, corsi di studio e permesso di riunirci in assemblea. Il direttore si dimostrò interessato e disse che avrebbe vagliato le nostre richieste dopo averle ipocritamente lodate. Subito dopo mi annunciò che la mia richiesta di trasferimento era stata accolta e che il giorno dopo sarei stato mandato al penale di Firenze. Ormai scottavo ed ero rimbalzato da un penale all'altro. Per ottenere un trasferimento a volte ci vogliono anni, io l'avevo ottenuto in meno di 20 giorni. I miei compagni non erano soddisfatti di questa novità e anch'io temevo che dopo la mia partenza avrebbero subito una ritorsione per l'iniziativa in corso. Il penale di Lecce non poteva tollerare un gesto come lo sciopero della fame senza reagire bestialmente. Per la direzione era un precedente pericoloso e doveva scoraggiare gli altri a farlo in futuro. Io, con i miei contatti esterni, li proteggevo un poco. Il giorno dopo, 17 maggio alle 11, il giornale radio diede la notizia dell'assassinio di Calabresi a Milano. Dopo un po' T si alzò e con il pennarello scrisse grande sul muro «Viva Pinelli». Vennero nel frattempo ad avvisarmi di preparare la roba. Sarei dovuto partire alle 20 per Firenze. Andai in magazzino con i libri e la biancheria e ci misi molto a risistemare tutto. Poi scesi in cortile a salutare alcuni amici e finalmente, verso le 15:30, risalii in camerata. Trovai Baraonda. Tutti i miei compagni avevano preparato i bagagli. Dalle facce mi resi conto che le cose si mettevano male. Nell'entrare avevo notato che due o tre guardie controllavano i movimenti nella cella del corridoio. Abbiamo deciso di partire tutti di brutto, mi disse T. Era la guerra. Mentalmente diedi un addio al mio trasferimento a Firenze. Tu, Sante, non c'entri niente, mi dissero. Esci dalla cella prima che arrivino gli sbirri. No, resto, non posso lasciarvi così. Insistettero ancora, ma sapevano che non li avrei mollati. Infatti li vidi un po' più sollevati quando si resero conto che restavo. Eravamo in sei. Uno di noi non era della nostra camerata e mi parve particolarmente agitato. Era ubriaco. Seppi poi che era stato lui a provocare quella situazione. Oggi ho la sensazione netta che abbia dato di proposito una mano alla direzione per fare fuori tutto il gruppo. E anche T e gli altri la pensano così. Infatti, durante la mia assenza era entrato nella nostra cella con una scusa e dopo pochi minuti un agente aveva fatto irruzione nella stanza, rimproverandogli di non aver chiesto il permesso per la visita e intimandogli di uscire. Il romano, così veniva chiamato, aveva reagito con violenza, rispondendo che per nessuna ragione al mondo si sarebbe mosso di lì, perché temeva un pestaggio, al che la guardia era andata ad avvertire i superiori. Era arrivato il maresciallo Pepe con due uomini e aveva ripetuto al romano l'ordine di lasciare la camerata. Conoscendo i metodi della custodia, i compagni erano intervenuti in difesa dell'intruso e dissero al maresciallo che non l'avrebbero lasciato uscire da solo. Anzi, per timore di rappresaglie, chiedevano il trasferimento immediato per tutti. Il Allora il maresciallo era andato a chiamare rinforzi. Ritornò con 7 o 8 agenti, la squadretta, e un gruppo di agenti addestrati e specializzati in pestaggi. In tutte le carceri esiste la squadretta. Il maresciallo si rivolse subito a me. Lei esca fuori, parte stasera. Sono soltanto le 16. Vada fuori, è un ordine. Non sono un militare, gli ordini li dia ai suoi uomini. Allora anche lei dovrà assumersi le sue responsabilità. L'ho sempre fatto. Questo fu il breve battibecco, poi si rivolse agli altri. Chi vuole partire, venga fuori dalla camerata. Ci prendeva per imbecilli. Rispondemmo: quando vengono i carabinieri? L'ambiente si faceva sempre più teso, le bottiglie erano a portata di mano, sia noi che gli sbirri aspettavamo il momento, un gesto per scattare. Esse disse al maresciallo: ti ricordi? Hai detto ti faccio un culo così. Un altro detenuto incalzò: a me invece hai promesso di farmi visitare il mattatoio. Che fai, mi ci porti ora? Pepe era livido e urlò: entri il personale. Le guardie si precipitarono tutte dentro, ma si fermarono quando videro che noi scattammo, facendo saltare il culo alle bottiglie, mentre il romano in un angolo si feriva i polsi e il ventre. Videro la nostra volontà di reagire e capirono che per prenderci era la guerra. Così cominciarono a indietreggiare e uscirono dalla cella. La prima mossa l'avevamo vinta noi, ma sapevamo che andavamo a prepararsi in forze. Non dovevamo dargli tempo. Subito barricammo con le brande il cancello, poi preparammo le armi difensive. Dall'esterno ci tolsero subito l'acqua e la luce. Passò mezz'ora e dallo spiancino si affacciò il direttore, chiamando d'urgenza. Si lamentò con me perché avrei dovuto partire in serata e poi chiese quali fossero le nostre intenzioni. Risposi che tutti dovevamo partire. Ci fece osservare che non era possibile subito, ci voleva un po' di tempo per il trasferimento degli altri. Intanto, alle sue spalle, il maresciallo, verde dalla bile, fece gesti minacciosi a esse, con il quale ce l'aveva in special modo. Lo facemmo notare al direttore. Le grida si accavallarono e gli insulti e le minacce. Capimmo che dovevamo stare molto attenti al maresciallo e ai suoi uomini. La situazione sfuggiva di mano al direttore, che cercava a tutti i costi di controllarla. Prima che andasse via, gli dicemmo che se la custodia avesse tentato di entrare con la forza nella cella, ci saremmo battuti con ogni mezzo. Ci assicurò che avrebbe dato ordini precisi di non farlo. Ci rendemmo subito conto che fuori nel corridoio e all'esterno nel cortile fervevano dei preparativi. Stavano allerta, eravamo convinti che avrebbero tentato l'irruzione. Ci assegnammo i posti e i compiti. Con le assi del telaio di un compagno di cella che tesseva, facemmo delle mazze chiodate. Intanto faceva sera e la cella fu investita da una luce violenta. Fuori avevano installato 2 potenti riflettori per controllare i nostri movimenti. La guardia sulla cinta fu rafforzata e tutti gli agenti rimasero consegnati in caserma. Dagli spioncini ci controllavano e noi mostravamo loro i bastoni. Tutto il carcere seguiva la nostra azione e c'era un silenzio innaturale. Le ore passavano in una tensione insopportabile. Verso le 23 capimmo che non sarebbero entrati, che fino al mattino avevamo un certo margine di sicurezza. Organizzammo i turni di guardia, ma tranne l'ubriaco nessuno di noi dormiva. Mi feci raccontare da T gli avvenimenti che avevano fatto precipitare la situazione e mi disse dell'azione provocatoria del romano. Poi, tutta la notte, cercammo di intuire cosa avrebbero fatto. La procura di Lecce era stata avvisata, ci aveva assicurato il direttore. Chi ci preoccupava era il maresciallo, c'era troppo odio sulla sua faccia e poi, già da tempo lui, fascista dichiarato, ci teneva d'occhio. Malgrado le assicurazioni del direttore, sapevamo che la custodia avrebbe tentato una provocazione per irrompere con la forza nella cella. Cercammo di sbarrare le due finestre. Se avessero gettato dei lacrimogeni non avremmo potuto resistere a lungo. Ci restava poca acqua e pochissimo cibo. Non mangiavo dal giorno prima e ora cominciavo a sentire fame. T e S si sedettero per terra sul materasso al mio fianco e passammo molte ore a discorrere. Di tanto in tanto le guardie si affacciavano cercando di individuarci. I miei due compagni mi manifestarono la loro simpatia per il fatto d'essere rimasto. Il trasferimento a Firenze era saltato. Facevano previsioni su dove saremmo finiti. Gli altri si erano addormentati. Li svegliamo all'alba. Dietro la porta avevamo sentito dei rumori. Assonnati, stanchi, di malumore e con i nervi tesi, ci preparammo a difenderci, ma non accadde nulla. Più tardi si affacciò qualche agente e chiamava ora l'uno ora l'altro. Provavano a cambiare tattica per convincerci a togliere la barricata, inutilmente, e cominciammo di nuovo ad aspettare. Ora l'ubriaco era snebbiato e cominciò ad avere paura e per un po' contagiò tutti. Decidemmo di isolarlo, di non rivolgergli la parola. Qualcuno voleva saltargli addosso, ma riuscimmo ad evitarlo. La cosa si metteva male. Mi rammaricavo di non aver potuto avvertire i compagni esterni, ma non c'era niente da fare. Sono queste le cose imprevedibili che capitano quando meno te l'aspetti. Eravamo caduti nella trappola e ora bisognava contare sulle proprie forze. Verso mezzogiorno ripresero le provocazioni degli agenti. Ancora una volta cambiarono tattica. Fecero scattare di colpo e con forza la serratura della prima porta. Entravano. Balzammo con le bottiglie e coi bastoni e ci disponemmo di fronte alla barricata. Si fece un silenzio mortale, qualche minuto di attesa, niente. Mezz'ora dopo l'episodio si ripeté, un'ora dopo ancora. Allora capimmo che volevano farci saltare i nervi. Ci sdraiammo sui materassi senza dargli più retta. Il pomeriggio T era steso sotto il muro e sopra di lui c'era uno spioncino con un vetro. Improvvisamente dall'esterno, con un bastone di vetro, fu mandato in frantumi. T si alzò, accostandosi e scuotendosi di dosso le schegge. Qualche attimo dopo, attraverso il buco, vedemmo colare litri di un liquido biancastro che sul pavimento diventò lievemente fumoso. Non capivamo che diavolo fosse. Uno di noi stava per allungare la mano, ma gli urlai di non farlo. Dall'odore avevo capito che era acido muriatico. Noi non vedevamo niente di ciò che succedeva nel corridoio. Dovevamo quindi indovinare dai rumori le loro mosse. Erano più di 24 ore che eravamo in ballo e la stanchezza e l'irritazione e quel vuoto nello stomaco ci davano maledettamente fastidio. Era una guerra di logoramento quella che stavano conducendo contro di noi. Ci preparammo ad affrontare la seconda notte, gettammo una coperta sull'acido e pulimmo intorno alla meglio. Anche le sigarette erano finite. Quella notte la trascorremmo a discutere con esse del nostro gruppo e dei compiti che avevamo nel carcere. Gli dissi che dovevamo smetterla con le azioni individuali. Gli prospettai cosa sarebbe stata la vicenda che stavamo vivendo se invece di trovarci in sei avessimo potuto coinvolgere nella protesta tutto il reparto. Gli parlai delle mie esperienze a San Vittore, dei politici che lì avevo conosciuto, delle cose fatte insieme, ma esse era scottato. Mi raccontò della rivolta alle nuove di Torino. Aveva preso 8 anni di carcere per quella rivolta ed era amareggiato e scontento dei politici. Si era sentito solo. Al processo di primo grado, quando gli imputati della rivolta erano stati uniti, le condanne furono contenute entro limiti tollerabili. In secondo grado, invece, il campo della difesa si era frantumato e a lui e ad altri tre erano state addossate tutte le responsabilità. Di qui la pesantissima condanna, che fu una decisione politica per intimidire gli altri detenuti e stroncarne le lotte e le iniziative. Dissi a esse che proprio quella sua esperienza era istruttiva. Divisi siamo deboli ed esposti. Il direttore intanto non si era più fatto vivo. Ci accordammo che avrei condotto io le trattative. Le provocazioni delle guardie, stavolta verbali, non erano mai smesse. Ma cosa credete di fare? Quando vi tireremo fuori ve la faremo pagare. Cespuglio, ti faremo barba e capelli senza sapone. Notar Nicola, chi ti crede di essere, un deputato? Prima o poi ci capiterai a tiro. Hai l'ergastolo e a forza di girare ci ricapiterai tra le mani. Faremo circolare la voce tra i colleghi, sta certo che avrai ciò che ti meriti. Fu così per tutta la notte e il giorno seguente. La fame era insopportabile. Nel camerone c'erano i 50 canarini di un compagno di cella che al momento della baraonda si era rifugiato altrove. Esse insisteva per tirargli il collo. Gli dissi che sarebbe stato un errore, ci saremmo messi contro il proprietario e poi c'era poco da rosicchiare, ma i canarini corsero un brutto rischio. Si arrivò al sabato, alle 14, mi sentii chiamare allo spioncino. Era il direttore. Mi avvicinai alla barricata e mi gridò: «Ho ottenuto dal ministro il trasferimento per tutti. Non è stato facile, ci è voluto più tempo del previsto. Stasera alle 18 partirete per il carcere giudiziario di Bari. Adesso togliete le barricate e preparate la roba». «No, non basta», risposi. «Deve darmi delle garanzie di incolumità per me e per i miei compagni. La custodia in questi giorni ci ha provocato ininterrottamente. Non ci fidiamo a venire allo scoperto». «Vi do la mia parola. L'esperienza ci insegna a diffidare. Non è sufficiente. Ma cos'altro posso fare? Glielo dico io. Intanto faccio allontanare tutti gli agenti. Dobbiamo parlare da soli. E quando nessuno poté udire, continuai. Nel periodo in cui sono stato qui, ho raccolto una documentazione. Noi usciamo, ma se ci viene torto un capello, quella documentazione la leggerà sui giornali». Impallidì. Diressi meno amara la pillola. «Mi dispiace ricorrere a questi mezzi. Non è nel mio carattere, ma dobbiamo tutelare la nostra incolumità. Non la prenda come un ricatto. La nostra è un'autodifesa». Ci pensò su e rispose: «Ho dato la mia parola che non sarete toccati e la farò mantenere. Non certo perché lei ricorre a questi mezzi. Non ho niente da rimproverarmi». Allora fece un gesto. T e S tolsero la barricata. Ottenemmo di uscire due per volta. Il direttore avrebbe assistito al trasferimento. Consegnammo le armi e la porta si richiuse. Ero certo che il direttore avrebbe mantenuto la promessa. Comunque decidemmo di stare in guardia e di non raccogliere le provocazioni durante il tragitto. T e io saremmo scesi per ultimi. Alle 18 uscirono i primi due. Dopo un quarto d'ora uscirono altri due. Trattenevamo il respiro per sentire se succedeva qualcosa. Finalmente uscimmo anche noi. Avevamo una guardia davanti e 5 o 6 alle spalle. Con la coda dell'occhio controllavamo i loro movimenti. Girammo al largo dello scalone, ma erano precauzioni inutili. Se volevano farci la festa. Il cuore mi balzò in gola quando, girata l'ultima rampa, vidi avanzare una 30ina di agenti che mi misero tra me e T, separandoci. Ci guardammo in faccia e tutte e due pensammo: «Ci siamo, ci hanno giocati». Un brigadiere mi disse: «Lei di qua», e mi portò in un vano sotto le scale. Non mi restava che seguirlo. Le guardie mi ordinarono di spogliarmi. Lo feci lentamente. Ogni indumento veniva palpato e se lo passavano. Quando fui completamente nudo mi dissero: «Si pieghi, perquisizione anale». Subito pensai: «Se mi devono menare, meglio che lo facciano subito». Perciò mi rifiutai. Intanto si avvicinava il maresciallo Pepe, seguito da un codazzo di guardie, e il brigadiere che dirigeva la perquisizione disse: «Si vesta». Pepe si accostò. «Tu e quelle carogne dei tuoi compagni dovete ringraziare il direttore che ha voluto condurre le cose con diplomazia. Se ti pendeva da me, vi avrei stanato a colpi di bombe, ma sta certo che ci rivedremo». Le guardie mi stavano intorno minacciose, mentre continuavo a vestirmi. Una guardia fece l'atto di scagliarsi contro di me, ma fu trattenuta e intanto urlava: «Bastardi, la mia famiglia piange da 3 giorni. Ormai temevo il peggio, ma vidi che Pepe guardava preoccupato verso la direzione e diede quindi l'ordine di portarmi via. Il portone si spalancò. Mi apparvero una cinquantina di carabinieri e tra loro i miei cinque compagni incolumi. Esse mi strizzò l'occhio. Tutto bene. Anche gli altri avevano un'aria soddisfatta, mentre sui volti delle guardie si leggeva odio e rabbia. Durante il tragitto cogliemmo un discorso fra due carabinieri. In tanti anni, diceva uno di loro, è la prima volta che porto via da questo carcere gente con le ossa sane, dopo una ribellione simile. Il pullman si mise in moto, aprirono il cancello principale. Fuori c'erano centinaia di leccesi ad assistere alla nostra partenza. Il gazzettino locale ne aveva dato l'annuncio. Durante tutto il viaggio fino a Bari, gli incroci principali erano presidiati dai carabinieri che controllavano il nostro passaggio. Un ufficiale mi disse: "Siete riusciti a mobilitare tutta la regione. Anche noi siamo stati consegnati in caserma." Arrivammo a Bari verso la mezzanotte, dopo aver attraversato i luoghi della mia infanzia. Eravamo stanchi, affamati e morti di sonno. Scendendo dal torpedone cespuglio, quando vide il poderoso schieramento di agenti ad attenderci, disse: "Ehi, Sante, guarda a quanta gente abbiamo rotto i coglioni. E dire che siamo solo in sei, anzi, in cinque." E guardò in cagnesco il romano. In matricola ci tolsero i ferri e ci richiusero in una cella di attesa. Mi lasciai cadere per terra, la sete mi tormentava ed ero al limite delle forze. Poi la porta si aprì ed entrò un tizio in borghese, seguito dal solito codazzo di agenti. "Sono il direttore." Parlò T, spiegando i motivi che ci avevano costretto alla protesta. Nello stato di apatia in cui ero piombato, non ce la feci a prendere parte alla discussione. Volevo solo dormire. Qualcuno disse che eravamo affamati e nell'uscire il direttore promise: "Vi farò avere del pane, a quest'ora non c'è altro." Arrivarono tre grosse pagnotte, ma fu impossibile mandare giù un solo boccone, non c'era una goccia d'acqua. A Bari va via alle 21. Passò un'ora e mi chiamarono. In matricola ancora carabinieri e ancora manette pronte. "Andiamo in un altro carcere," dissero. Risalì sul furgone. Un carabiniere mi offrì una sigaretta che non rifiutai. Viaggiammo tutta la notte e solo alle prime luci dell'alba arrivammo a destinazione, Potenza. Qui c'erano solo tre guardie ad attendermi. Perquisirono il mio bagaglio e quando saltarono fuori i libri, una guardia mi disse ammiccando: "Leggi bene?" "Anch'io la penso come te." Si soffermò sul libro di Angela Davis, Il ventre del mostro, e mi chiese se glielo prestavo. Glielo regalai e lo pregai di farmi andare subito a dormire. Mi misero in cella di isolamento. Di lì scrissi poche e frettolose righe ai compagni e ai familiari. Poi dormii ininterrottamente per 16 ore. Mi svegliai che era notte e passai molte ore ad annotare gli ultimi avvenimenti. Nella mattinata chiesi più volte di recarmi all'aria e nel primo pomeriggio mi fu concesso di uscire accompagnato da 6 guardie. Dopo mezz'ora mi fecero rientrare e mi portarono dal comandante. "Qui non possiamo tenerla," mi disse. "Fra poco arrivano i carabinieri e la porteranno nel carcere giudiziario di Bari." La mia permanenza era durata 36 ore. La scorta mi riaccompagnò a Bari. Anche qui il maresciallo che mi accolse disse che sarei rimasto in quel luogo solo fino a quando il ministero non avesse comunicato la nuova destinazione. "Mi chieda tutto ciò che vuole," concluse, "tranne di metterla con gli altri detenuti. Resterà in cella di isolamento." Così fu ospitato nelle celle di punizione. Avevo 2 ore di aria al giorno. In 5 anni di carcere avevo una lunga esperienza di isolamento. A San Vittore avevo fatto addirittura 7 mesi consecutivi. Non era quello che mi spaventava. Le mie uniche preoccupazioni riguardavano la nuova sede e la possibilità di mantenere il contatto con i compagni fuori e i familiari. Pochi giorni dopo, comunque, dato l'affollamento del carcere, mi misero in cella un giovane siciliano che un mese prima era stato evacuato da San Vittore. Il nuovo direttore, dottor Santa Maria, aveva inaugurato il suo incarico con la deportazione, lontano dalle famiglie e dagli avvocati di 300 detenuti. La cella murata è una raffinatezza che ho visto solo nel carcere di Bari. Mi hanno detto però che anche nel carcere di Lecce ne esiste una. Si tratta di una piccola stanza, buia e senza aria, umidissima, a cui sono state murate le finestre. Nelle celle di Bari c'è solo il pancaccio, un pezzo di legno su cui dormire, con una coperta e basta. Io ero isolato, ma avevo materasso e cuscino e mi vergognavo un po'. La mia segregazione a Bari durò 20 giorni. Il 10 giugno partivo per la nuova destinazione, Porto Azzurro. Sapevo di andare in un ambiente difficile. Un mese prima lì si era formato un nostro gruppo combattivo, ma presto era stato smembrato e i compagni trasferiti altrove. Erano rimasti in 5 o 6, tenuti isolati dagli altri. Mi consolavo pensando che finalmente avrei riabbracciato un compagno del tempo di Volterra, Zeta, e R, che era stato mandato via da Lecce poco dopo il mio arrivo. C'era anche il carissimo compagno V e C, un compagno molto bravo che non avevo ancora conosciuto. L'incontro fu estremamente caloroso e commovente. Zeta non riusciva quasi ad aprire bocca, poi si girò di scatto e poco dopo tornò con un libro di poesie di Neruda. È un anno che me lo porto dietro per dartelo. C fu più pratico. Ti preparo da mangiare. Le notizie si accavallarono sui compagni dentro e su quelli dei collettivi di appoggio fuori. A tavola conobbi un giovane acquisto del gruppo, L, impulsivo, forte come un toro e sempre affamato. Tutti lo prendevano in giro per questo motivo, ma si privavano di un po' di cibo per saziarlo. C poi mi illustrò la situazione. Eravamo isolati da tutti gli altri detenuti. Da un mese mezza sezione era stata murata e nei nostri confronti veniva usato un regolamento speciale. I detenuti chiamavano politici gli abitanti della nostra sezione, altri la chiamavano il braccio della morte. Mi dissero che da qualche giorno le cose stavano cambiando, ma la repressione era stata incredibile, l'isolamento totale. Per noi era ridiventato Porto Longone. Tutto era cominciato con l'uscita clandestina di alcune lettere che denunciavano i metodi che la direzione usava per il reinserimento del detenuto nel consorzio sociale. Le autorità avevano deciso che ormai a Porto Azzurro tutto andava bene, infatti non era più il famigerato carcere di pochi anni prima, ma altre magagne erano saltate fuori. Alcune lettere furono pubblicate dalla stampa di sinistra e subito, come risposta, lo staff dirigente di Porto Azzurro cominciò a sequestrare giornali e libri. Le perquisizioni erano frequenti e riguardavano specialmente i fogli scritti. Il gruppo fu sparpagliato in varie carceri, ma prima i compagni dovettero subire l'isolamento nella famigerata polveriera, le celle di punizione più orrende che esistano nel carcere italiano. La cosa più grave, però, fu il direttore Ciccotti. Provocò un autentico linciaggio morale e fisico dei compagni mettendogli contro gli altri detenuti. Per radio parlò di un gruppo di esaltati che tramavano a loro danno e che lo avrebbero costretto a togliere le miserabili concessioni che aveva fatto se i sovversivi continuavano la loro azione disgregatrice. Per ora li aveva isolati in un braccio e invocava la collaborazione dei detenuti perché non venisse dato loro spago. Volevano soltanto creare delle grane. I risultati non si fecero attendere. I più ruffiani voltavano le spalle ai compagni e avevano persino timore di salutarli. Il giorno dopo fui convocato in direzione per la solita paternale. Il direttore, guardando la mia cartella biografica, commentò: "Vedo che le direzioni delle carceri in cui è stato hanno espresso giudizi sempre più sfavorevoli sul suo comportamento da mediocre. È passato a pessimo." Gli chiesi di rimanere in isolamento con i miei compagni, ma non ce n'era bisogno, non aveva nessuna intenzione di mettermi nel braccio degli altri detenuti. In settimana venne per un nuovo colloquio. Marina. Tenevo particolarmente a questo incontro. Avevo passato in rassegna tutti gli ultimi avvenimenti per farle una relazione completa. I preliminari per il colloquio furono lunghi e meticolosi. In una stanzetta fui completamente denudato. Ogni indumento fu perquisito e alla fine, quando credevo che tutto fosse a posto, la guardia mi disse: «Apra la bocca». Un agente si installò al nostro tavolo e senza tanti complimenti disse: «Parlate forte, ho l'ordine di ascoltare ciò che dite». Marina, nell'andar via, lasciò alcuni libri e giornali che mi furono sequestrati. Ne chiesi il motivo al direttore. La risposta fu: «Ho dato un'occhiata a quei giornali e, a mio parere, vi sono diversi estremi di reato. Li ho trasmessi alla Procura della Repubblica di Firenze. Decideranno loro». Faceva coscienziosamente il suo lavoro il dottor Ciccotti. Sabato 1 luglio ero ancora a letto quando entrarono le guardie della custodia. «Lei è trasferito, prepari la sua roba subito, corrispondenza, appunti e libri. Prenderemo tutto noi per un controllo». Porto Azzurro mi espelleva dopo soli 20 giorni. Le guardie si accanirono sulla posta. Notai che si soffermavano soprattutto sulle lettere di Marina e le mettevano tutte da parte. Ne fecero un pacco e le portarono al direttore. Qualche tempo dopo avrebbe avuto in casa una perquisizione di 13 ore. Anche a Costa dissero di prepararsi. Cercammo di sapere dove ci portavano, ma fu tutto inutile. Nessuna notizia era filtrata. Più tardi mi restituirono tutta la corrispondenza. Il mattino dopo, al momento della partenza, i carabinieri mi informarono che eravamo diretti all'isola di Procida. L'ardente periplo continua. Il capo è di buona speranza. Fine. Talvolta vorrei ripercorrere le strade del mio quartiere e ritrovare vorrei quella generazione che si fermò sul testamento di Julius Fučík, colui che sotto la forca scrisse a noi per noi. La generazione che correva compatta da papà Cervi a consolarlo, a consolarsi. Quella generazione che disarmata raccolse la bandiera della resistenza prima che la borghesia la agitasse oscena. Vorrei ritrovarmi con gli operai perseguitati da Scelba e da Valletta, quelli dell'officina Stella Rossa, i licenziati che seppero tenere, e ricordare qui vorrei gli anni 50, tutti, uno per uno, giorno dopo giorno. Ricordare gli affanni, ricordare la fame, ricordare il freddo, il carbone comprato a 5 kg per volta e il baracchino con la pasta scotta e null'altro. Poi gli scontri, luglio 60, e gli struggenti ragazzotti di Piazza Statuto col selciato tra le mani. Ripercorrere vorrei tutta via Cuneo, attraversare la Stura, la Dora e tutto il quartiere mio. Guardare vorrei per una volta ancora la vecchia casa col cesso sul ballatoio, ritrovare per un attimo solo i 20 anni miei, colui che per primo mi chiamò Terrone e mi insegnò poi che fare il crumiro era il crimine più grande. In ultimo, vorrei chinarmi assorto sull'elenco angoscioso di chi non c'è più e nascondermi vorrei in via Chiusella, la più brutta delle strade del quartiere mio. Ricordare anche l'addio violento, feroce, l'ira, ma pure